Ok, possiamo cominciare, ci dicono. Sì. Grazie per la pazienza, siamo un po' in ritardo, ma siamo tutti in ritardo, anche noi, quindi siamo di conseguenza. Grazie per essere ancora qui. Allora, intanto buonasera a tutti, benvenuti a Internet Festival 2019, le regole del gioco. Io mi chiamo Antonio Paolini e ho il compito stasera di presentare questo piccolo ma intenso libro di Carlo Boccadoro, scritto per Einaudi, si chiama Analfabeti sono, è uscito quest'anno, correggimi se sbaglio. È uscito tre mesi fa. Io ho fatto a tempo a leggerlo sotto l'ombrellone, come si dice. Però anche in quell'ora, no, in realtà l'ho letto un po' a rate. Si è consumato, per farti capire quanto in realtà ogni singola parola aveva un senso. Tu non l'hai pensato come fosse un libro d'ombrellone. Sì, no, non è la lettura che uno consiglia sotto l'ombrellone, no, però ogni tanto arrivava l'onda, no? Che, non che... sei l'unico che mi ha mandato le foto al mare con il libro. Sì. Perché l'ombrellone se l'ha fatto pure. Ha funzionato. Carlo Boccadoro è un musicista, compositore di musica cameristica, sinfonica, tra i più affermati, penso di poterlo dire, anche musicologo, quindi con uno sguardo... No, non sono un musicologo, è una cosa seria, perché ho studiato musicologia, io sono un compositore che parla di musica, no, diciamo le cose come stanno, se no uno fa l'università di Cremona in musicologia e dice, ma questo non dove? Musicologo è un altro mestiere, io sono un compositore e oltre a scrivere musica ne parlo come ne scrivo. Però si può dire che sei marchigiano, che sei maceratese e che hai però connessioni importanti con questo territorio perché sei direttore artistico della stagione dei concerti della Normanna. Della Normanna, sì. Sono pisano da 3 anni, diciamo, acquisito, e devo dire che mi trovo molto bene. Che non mi cacciano, sono ancora qui. Allora, questo è un libro che magari avrà anche dei difetti, lo scoprirete se lo leggerete. Io, non c'è dubbio. Io qua, devo dire, invece mi sono segnato dei pregi molto importanti perché racconta fondamentalmente dell'impatto della transizione digitale su tutto quello che riguarda la fruizione e anche poi alla fine la creazione stessa della musica. E siccome escono vagonate di libri, ve lo assicuro, dove tutti dicono che impatto ha avuto internet su di me, questo è il primo che leggo e che sfugge a questo dibattito micidiale tra comunicatori, economisti, sociologi, giornalisti, che stanno più o meno tutti lì fondamentalmente a dire sarà una tragedia perché io adesso non conto più, io sono stato disintermediato. E il pregio invece che ha questo libro è che la musica sarà sempre indispensabile, quindi alla fine questo è un libro neutro sul tema dell'impatto. Secondo me il difetto vero del libro è anche il suo pregio, cioè non c'è nemmeno una risposta. Ci sono molte domande, molte domande. Un sacco di questioni, perché questa collana che si chiama Le Vele, proprio quando tu fai un libro per Einaudi ti dice vuoi fare un libro, tu non devi approfondire le questioni, le devi fare come uno che getta 100 fish sul tavolo e poi dopo che uno l'ha letto approfondisce le questioni che gli interessano. Io in realtà qui metto in 90 pagine, non ti sono un sacco di spunti, molto più di quanti potrei approfondire. Ma è fatta così la collana, è fatto apposta, quindi io butto lì un sacco di idee in modo da provocare come sta succedendo, chi è d'accordo, chi non è d'accordo, in discussione, ma il pensiero gira, questo è lo scopo, quindi io risposto. Però sei d'accordo non sul fatto che non ne ho. sei d'accordo però sul fatto, io me lo dico da solo, i comunicatori, i giornalisti, i sociologi, gli economisti che scrivono questi libri, loro sono ampiamente disintermediabili e quindi hanno una grossa tara, no, sul fatto. Io qui parlo di me nella prima parte del libro perché parlo dell'assurdità di fare un mestiere come il mio, che è quello del compositore, che è considerato un non mestiere, che da qualsiasi punto di vista non è un mestiere, che la società non giudica come un mestiere tale. E soprattutto le assurdità che ti senti dire alle persone che ti trovi davanti quando poi devi proporre delle cose o devi parlare con queste persone che sono state messe dietro a scrivere degli enti lirici delle stagioni di musica sinfonica, eccetera, e spesso sono persone che fino all'anno prima si occupavano di panettoni, pannolini, di ascensori, ma che siccome sono dei bravi manager, allora poi li mettono a dirigere il Regio di Torino, l'orchestra della RAI, e pensano perché la musica sia un prodotto, di nuovo questo è bravo a vendere i prodotti, sarà bravo a vendere anche Beethoven. E quindi tu ti trovi davanti gente che ragiona in questo modo qui, cioè come se detto come fossero dei pannolini. Allora, la prima parte è veramente grottesca, ma tutto quello che è successo, anche le cose più assurde, sono tutte vere. Cioè mi sono trovato davanti della gente che definire analfabeti è un eufemismo. Però erano lì perché magari avevano una festa del partito X piuttosto che Y, oppure per altri motivi. E quindi diciamo, quelli sono analfabeti veri. Quindi la prima parte del libro ci sono degli analfabeti reali che potete incontrare, che poi un po' hanno una specie di mutazione fisica, l'uomo diventa tutti uguali, si vestono dello stesso modo, tutti lo stesso tipo di occhiali, diventano tutti tranchiati dello stesso modo. Stare dietro con le scrivanie proprio con loro una metamorfosi kafkiana, diventano tutti intercambiabili, quello di Bologna somiglia a quello di Napoli, che somiglia a quello di Firenze, eccetera. La seconda parte invece sono degli analfabeti che non esistono, potenziali, virtuali, che possibilmente non esisteranno mai, che sono quelli appunto i potenziali, come quelli che scrivono solo in stampatello, no? E poi non sono più capaci di scrivere in corsivo, così dite l'alfabeto di ritorno. Ci sono dei potenziali analfabeti acustici, gente che non è più in grado di seguire un discorso musicale che vada oltre quello che ci viene proposto dal mondo dello streaming, che è un universo totalmente nuovo, e quindi c'è anche tutto il discorso del scrivere musica post-internet. Quindi sono due visioni molto chiare, nel punto che se un libro breve, questa metà fra analfabeti reali e finti c'è. Molto bene, infatti è da qui che voglio un po' partire. Il tema, diciamo, di partenza del libro è un fenomeno che è stato analizzato da tantissimi punti di vista, cioè quello dell'attenzione che diventa una risorsa scarsa, non sono più i contenuti la risorsa scarsa, come accadeva prima quando esisteva un monopolio della distribuzione dei contenuti. Adesso la lotta di tutti quelli che propongono contenuti è per conquistare l'attenzione dell'individuo, e questo ha drammaticamente frammentato il momento del consumo di qualsiasi contenuto, non solo il consumo musicale. Però diciamo che da quando internet si è sviluppato commercialmente, quello che abbiamo visto è che in letteratura o anche in televisione, in cinema, si è aperto almeno un bivio. Cioè, da un lato vieni sollecitato brevemente ogni 2 secondi e c'è un appagamento effimero, dall'altro invece c'è chi prova a farti fare l'investimento emotivo in un racconto, tipo le serie TV, che grazie a Netflix, grazie a queste nuove piattaforme sono riuscite a ingaggiare milioni di persone. Questo bivio in qualche modo si è ricreato. Nella musica invece drammaticamente, almeno a livello commerciale, sottolineo, la proposizione commerciale della musica, invece no, il consumo della musica si è drammaticamente frammentato. Io, che pure ho sposato una musicista classica, ho mia figlia che ama la musica invece rock, a 15 anni ama la musica degli anni 70, i concept album dei Genesis, Selling Green Linger by the Pound, Pink Floyd, eccetera, che però ascolta così una canzone per volta in delle playlist anche casuali, perché mette lo shuffle, quindi le può capitare di sentire, che so, The Cinema Show dei Genesis, subito dopo sentire Sfera e Basta, va benissimo, insomma, ecco. E questo anche a me un po', che sono di una generazione, insomma, io ho più di 50 anni, un po' mi sconvolge. E ti chiedo cosa sta succedendo, perché da lì vorrei partire, cosa sta succedendo nella funzionamento, non lo sa nessuno. Cioè, chiedere adesso a una persona cosa sta succedendo nella musica grazie a internet è come chiedere a uno dei tempi in cui si è passati dall'oralità alla scrittura, che cos'era il nuovo romano che sarebbe successo 600 anni dopo. Non lo sa, non lo può sapere. La differenza che c'è, no? Fra Flaubert e Rob Grier, non glielo puoi chiedere a uno che ha appena inventato la scrittura. Ecco, noi abbiamo appena inventato internet, già 20 anni, 20 anni per la musica, ma per qualsiasi forma d'arte, sono niente, non sono niente neanche per il rock, che ormai, voglio dire, adesso si festeggia i 50 anni di Abbey Road, cioè è storicizzato anche quello. È una musica che ha dimostrato che nasce come musica commerciale di intrattenimento, ma che ha dimostrato di essere arte del XX secolo e di saper superare i limiti del tempo. Quindi, in un mondo in cui nasce questa cosa che cambia tutto, ma tutto, cioè tutto, ma non rispetto alle guerre puniche, rispetto a quando studiavo io racconto, io studiavo nel 76, 77, 79 al conservatorio, e allora partiture ad esempio di musica contemporanea non ce n'erano, c'era la biblioteca dove dovevi fare delle code per trovare magari un pezzo di Berio piuttosto che di Cage, vecchio di 30 anni, per lì, Pensi che in contemporanea ne sentivi solo se un certo direttore specializzato venivano suonati da te, mentre oggi io sapevo che c'era prima di una cosa interessante ad Amsterdam con 50 euro per un low cost, me l'ascolto e torno indietro. Cioè non c'è, non sono più, non ho bisogno di aspettare che qualcuno me la porta. E anche se non c'è soldi per andare ad Amsterdam, apro il computer e spesso le prime delle opere sono dirette a streaming, ci sono le partiture video gratis adesso. In gratis, tutti gli editori mettono a disposizione le partiture, non le puoi stampare, però le puoi vedere a video, le dirette radio, cioè veramente si può ascoltare in tempo reale qualsiasi cosa, di qualsiasi campo poi, ma anche fermiamoci solo al mio. Mentre invece non so, una volta le partiture costavano una marea, io mi ricordo che per trovare una partitura di Maderno me l'avevo dovuta far stampare apposta per me. E allora mi costò negli anni 70 tipo 300.000 lire, cioè una cosa tipo 800 euro di oggi, per averne una copia che poi era una biografia del manoscritto di Maderna, non era nemmeno stampata. Quindi la dovevi proprio volere, ti doveva proprio interessare quella roba lì, perché tutto cospirava perché tu dicessi vabbè, ma vaffanculo. E invece no, cioè, proprio, cioè, dovevi essere proprio, dovevi avere la malattia di essere un compositore. Quindi era tutto lentissimo, ci volevano mesi per far arrivare un CD, 8 mesi. Oggi questo per un ragazzo di 20 anni è un mondo che sembra veramente quello delle guerre puniche, ma stiamo parlando di 20 anni fa. Quindi la differenza è talmente assurda rispetto anche a me, che non ho 90 anni, ho 56, ma un ragazzo di 18 anni mi guarda come se fosse giustamente uno del neolitico. Non solo perché io scrivo musica con la mano, con la matita e non uso neanche il computer, ma anche se usassi il computer, cioè proprio il mondo dove abita lui non è quello dove abito io, ma anche se io fossi la persona più aggiornata e facessi il baricco che fa finta di essere giovane dicendo che è una figata tutto quello che nasce sul web, eccetera, comunque ci avrei 40 anni di più e quindi non posso proprio mettermi al suo piano. Lui parla una lingua che per me è incomprensibile. Ad esempio, una cosa che c'è tantissimo, ad esempio, compositori che hanno 18-20 anni negli Stati Uniti, è un'idea che per me è assolutamente folle, che è la composizione collettiva. Cioè la composizione di musica classica, musica rock è chiaramente, o jazz è chiaramente un'operazione di assieme, no? Si suona, si improvvisa, i Beatles, i pezzi si scrivono assieme, magari viene uno che ha un pezzo, presenta uno spunto, ma poi il gruppo lo sviluppa assieme. Invece il compositore classico è quello che si mette lì, o con la matita o col computer, e da solo scrive un pezzo per orchestra, un quartetto d'archi, un pezzo per coro, quello che è. Questi ragazzi invece decidono che, non so, uno fa gli ottoni, l'altro fa gli archi, l'altro fa, si mandano i file senza manco incontrarsi, e facciamo così le cose, e scrivono un pezzo in 4-5, ed è per loro una cosa assolutamente normale. Quindi capite che è proprio un altro mestiere, cioè non fanno i compositori, ma è un altro mondo, un mondo nel quale io non ho modo di entrare, perché per me è incomprensibile. Quindi è ancora presto per dire dove va la musica, nessuno lo sa. Ci vorranno 100 anni almeno per capire questo vulcano quando si fermerà la lava. Per adesso la lava sta spiegando. È il motivo per cui parliamo di transizione digitale. Io cerco sempre di parlare di transizione e mai di rivoluzione. Se che abbia le risposte, è un fesso, non può avere, ma non siamo stradati. Ma perché c'è una grande voglia subito di commentare gli esiti di qualcosa che invece è molto all'inizio. La volta precedente che ci fu una rivoluzione di questa portata, dal punto di vista anche dell'accesso democratico al contenuto, cioè con l'invenzione della stampa a caratteri mobili, ci vollero 100 anni, nel frattempo un paio di guerre di religione, conseguenza anche della diffusione delle informazioni, perché si avesse qualche risposta. Quindi è sacrosanto invece concentrarsi sulle giuste per questo domande. Si chiama musica e presente, perché io posso parlare solo di quello che vedo intorno a me adesso, ma non posso né giudicarlo, posso solo dire che succede. Poi sono d'accordo, non sono d'accordo, chi se ne frega. Cioè, tanto che se io non sono d'accordo che questi scrivono musica in 5, smetteranno di farlo. Ma no. Sulla scrittura collettiva, naturalmente sfondi una porta aperta per quello che può valere la mia opinione, però ti chiedo invece il fenomeno del remix, cioè un'opera compiuta che però poi vive di una nuova vita, no? Ne parla sempre, ne ha parlato per anni in termini entusiastici, Lessig, no? Quando parla di shared culture, e quindi remix, meme, ricreatività, anche per la. Anche per la remix c'è sempre stato, cioè Vivaldi, quando non c'era ancora il copyright, ascolta cioè Bach, scusate, ascolta il concerto per quattro violini di Vivaldi in si minore, lo trascrive un tono sotto per quattro clavicembali, nota, cioè è uguale, e lo firma lui. Cioè il concerto di Bach altro non è che il concerto di Vivaldi un tono sotto, così come ha fatto con altri pezzi di Vivaldi. Cioè li ha messi, se li ha appropriati, ha detto che erano pezzi suoi, tanto uno chi lo sapeva, due non c'era il copyright, due l'idea era mi piace, ci metto le mani sopra, diventa una cosa mia. Poi torneremo sia sul copyright. Il fenomeno del remix quando ma pensa ancora prima nel Medioevo, che c'era, non so, un famoso tema come Lombard May, che nessuno sa chi ha scritto, una canzone popolare come se fosse Fra Martino Campanaro. Beh, i compositori del Medioevo, da Perotino, Salionino, da tantissimi anni, facevano a gara a chi scrivere i pezzi su Lombard May. Ci sono almeno centinaia di messe di autori diversi, tutte su questo tema. Anzi, un tema era famoso quando tutti lo rubavano, perché non c'erano i dischi, non c'era niente. Quindi se il tema era diffuso e rubato in Francia, in Germania, eccetera, era una figata. Quindi l'idea di appropriazione che c'è oggi, per me non è niente di nuovo. Guarda, avrei dovuto farti un'altra domanda, ma l'aggancio mi viene troppo facile. I modelli economici attuali legati ai contenuti sembrano quasi cercare di far proliferare le idee cattive o non verificate, parliamo dell'informazione, no? Quindi sì, il modello economico remunera la libera circolazione di tutto ciò che è trash e invece la protezione di tutto ciò che viene percepito di valore attraverso un'idea di copyright naturalmente ancora valida ma che ha bisogno di una riforma. Ma il problema del copyright che oggi non esiste più, cioè il sistema economico della musica di oggi remunera tutti tranne gli artisti. Questa è la fregatura, cioè gli unici che non ci guadagnano niente sono quelli che producono quello che viene venduto. Ma non sarà mica un furto legalizzato. Spotify è un furto legalizzato. Un equivoco il fatto che da noi la società che dovrebbe curarsi di proteggere appunto chi crea, come Masiai dice, proteggiamo chi crea, però in realtà nel nome stesso, cioè società, ma non può fare niente degli autori e degli editori. Ma appunto, ma se gli accordi vengono fatti dai discografici, che decidono, che i discografici prendono il 99,999 e all'autore va lo 0,00001%, la SIAE non ci può fare niente, perché l'accordo viene fatto fra Spotify e le case discografiche, ma anche iTunes. iTunes, una canzone qualsiasi, sia uno di Claudio Baglioni, sia un mio quartetto per archi, costa 0,99. Voi lo comprate, io prendo un centesimo. 98 si riprende iTunes. Ora, vi sembra un rapporto 98-1 possibile? No. E Spotify ancora meno. Spotify ancora meno. C'è stato Bryan Adams, il grande rocker canadese, che ha fatto vedere che un suo brano ha avuto 15 milioni di streaming, non uno, 15 milioni, e lui sono arrivati $1,000 di diritti. Se lui avesse venduto 15 milioni di dischi, avrebbe guadagnato quasi $15 milioni. Quindi la differenza è notevole. Cioè si è deciso che bisogna ridurre a zero il valore di chi crea e tutto viene preso da chi produce. Questo è uno squilibrio assurdo, c'è poco da fare, mi meraviglio che un sacco di gente da Adele in giù non voglia la propria musica su Spotify, perché Spotify è una grandissima idea, come idea, cioè tu hai a disposizione il mondo intero e paghi un abbonamento, ma tutti i soldi anche dell'abbonamento vanno tutti ad altri e non a chi la musica la produce. Il problema è il modello economico più che l'innovazione tecnologica. Che definendo da schiavisti è proprio un eufemismo. Allora, c'è chi a un certo punto ha deciso di ribellarsi, di mandare un messaggio forte contro quantomeno il tema della frammentazione. Nel 2001 uscì un disco che personalmente mi ha segnato, del Pat Metheny Group, che si chiama The Way Up. E non voglio aggiungere altro perché voglio coinvolgere Chiara della Lega ad Alta Voce, che ci legge un brano del libro, a pagina 66, vediamo se lo ritrovo, ma la premessa è riuscire a mettersi gli occhiali. È un brano questo che dura 68 minuti non stop, cioè un unico brano che se vuoi ascoltare è come sentire più o meno una sinfonia di Mahler, ma è un disco di jazz. Del resto, non è solamente il modo della classica a interrogarsi sul problema della mancanza di attenzione. Nel 2005, Pat Metheny, uno dei migliori compositori e chitarristi di jazz, ha pubblicato un disco intitolato The Way Up, che consiste consiste in un solo brano dalla durata di 68 minuti ininterrotti che necessita di un ascolto continuo, proprio come una sinfonia di Mahler. Bettini all'epoca ha dichiarato alla rivista JazzTimes.com di aver realizzato quest'opera come una simbolica protesta contro l'accelerazione della vita quotidiana e le continue distrazioni che essa impone alle persone. La forma che oggi va per la maggiore è la suoneria del telefonino, dice Bettini, tutto fuorché sorpreso. Siamo passati dalla sinfonia all'album, poi ai 45 giri, poi abbiamo ridotto la durata dei 45 giri, poi siamo arrivati al loop di 4 battute e adesso siamo scesi a una durata di 1 o 2 secondi. The Way Up, continua, è una reazione a un mondo dove le cose stanno diventando più brevi, più stupide, meno interessanti, meno dettagliate, più ovvie. Ecco, la cosa che io ho sempre amato molto di Pat Metheny è che nel suo lavoro quello che succede lo avverti nel suono. Questa è una protesta anche militante, in qualche modo. 2 anni dopo, in Speaking of Now, si sente quasi il crollo delle Torri Gemelle, un po' come in Stravinsky che si sente la guerra, no? E io penso che sia stato un gesto forte ma quasi ignorato, cioè uno dei dischi migliori di Pat Metheny, proprio per la sua scarsa fruibilità, non è tra considerato tra quelli di maggiore successo. Ha vinto il premio Award, no, è stato sì, però in realtà è stato ignorato perché non ha colpito le persone, perché lui si rivolge comunque a un pubblico che c'era la sua età, cioè la mia età, la tua età, dei ragazzi di 18 anni che proprio ha fatto un disco di 68 minuti. Non me ne frega. È là il mese che ha vinto il Grammy per il migliore assolo di piano. Cioè, non gliene importa proprio niente, cioè, non parlava a loro, parlava come si dice ai convertiti. Cioè, eravamo già tutti d'accordo che non va bene, che la musica duri quanto la suona del telefonino. Il problema è che non c'è nessun rapporto di dialogo e anche comunque solo di confronto, di scambio di idee fra chi c'ha la mia età e chi c'ha 15 anni, ma è sempre stato così. E fondamentalmente io sono convinto che sia giusto che sia così. Cioè, quando il signore di prima si lamentava che il trapper non gli ha risposto, ma è normale, non gli avrebbe mai risposto. È proprio una questione generazionale. Cioè, i ragazzi giustamente difendono le loro... Addirittura pare che in Inghilterra alcuni rendano talmente difficile l'accesso a questi cosiddetti DMR, di Beats, attraverso una serie di codici complicatissimi che capiscono solo, perché sono come quei ragazzi che parlano in gergo per non farsi capire dai grandi. Ma del resto, ai ragazzi che ascoltavano i Beatles facevano vomitare, gli facevano vomitare Elvis, e per quelli che ascoltavano Elvis i Beatles erano dei dementi. Idem, quelli che facevano il punk, i Genesis gli facevano schifo, e viceversa, cioè è sempre stato così. Ogni generazione che arriva dopo non solo rifiuta completamente quello che è stato fatto prima, ma fa in modo che non ci sia via d'accesso, cioè non ci vogliono proprio parlare con quelle della generazione prima. Tant'è vero che io ascolto veramente quasi tutto, centinaia di libri di gusti, a letto i miei libri lo sa, cioè sono dire che un micolo sono poco, però a me il trap fa proprio vomità, cioè io non li considero neanche dei musicisti, li considero dei cretini, e questo secondo me è il segnale che è una musica veramente nuova e totalmente diversa, alla quale io non ho alcun tipo di accesso, ma manco ce la voglio avere, ripeto, come i fans di Elvis non volevano avere accesso. Se piacesse un po' a me, cioè ripeto, se io facessi il baricco 2 che dice che invece il trap è una figata per far vedere che si, così come si tinge i capelli, no? Perché è più giovane di quello che è, ma in realtà manco lui sa cos'è il trap, però siccome fa figo dire che c'è il trap, allora lui dice che è bello. Ma in realtà anche per lui è incomprensibile, non può essere comprensibile, perché loro poi fanno di tutto per non renderlo comprensibile a me. Parlano fra di loro, è sempre successo così, e sempre succederà così, perché è nell'ordine delle cose, è una difesa dei propri confini. Sono sicuro che il trap ha qualcosa di buono. Io non lo vedo, ma manco lo voglio vedere, cioè io non cerco di mettermi in contatto con loro. Io ascolto il Jethro Tull, sono felice così. Avendo una figlia di 15-16 anni, insomma, ne so qualcosa di questa. Forse perché io non ho figli, non ho problemi di dovermi relazionare. Comunque, domanda, su Maricco ci torniamo perché è un tasto dolente quello. No, io lo conosco da anni, abbiamo fatto anche lavorato assieme, però lui ultimamente c'è stata sempre la Silvana Pampanini che era in TV con i jeans e il rossetto quando aveva 80 anni. Cioè lui fa vedere che è aggiornato, che lui che capisce che il web, tutto quello che fa il web è una figata, tutto bello. Guarda, però, chi non dice così è un vestito di andare. Se hai letto il libro, ho letto, perché, che è un libro tra l'altro scritto benissimo, tra l'altro la presentazione dello scorso anno qui a Pisa è stato uno show, direi che è più quasi lui che racconta il libro, il vero contenuto, perché è bravissimo, grande divulgatore, però io ho trovato una parte abbastanza, qui insomma, mi sento abbastanza in opposizione rispetto al suo pensiero, cioè quando lui dice che il problema della rivoluzione digitale è che è stata concepita negli anni 70, diciamo, da delle persone che avevano delle caratteristiche etniche molto precise, cioè tutti maschi, tutti ingegneri, tutti della Silicon Valley e tutti in totale assenza di una cultura umanistica, e quindi hanno trasformato tutta la funzione dei contenuti in un grande gioco, in questa gamification che deve essere... È il solito discorso di luoghi comuni degli americani ignoranti. Ecco, io non, questo... a me questo non è piaciuto molto. Come se gli americani non ci avessero dato Faulkner, Hemingway, Charles Ives, Stanley Kubrick, cioè sta cosa che gli americani non c'hanno cultura è una delle grandi minchiate che dicono gli europei da sempre, cioè ci hanno dato il blues, ci hanno dato il jazz, ci hanno dato una quantità di cose culturali straordinarie in 200 anni poi, mica in 2000. Quindi già c'è questo snobismo, no, di quello che ha studiato a Parigi, che dice che sì, bravi, però simpatici, però sono dei contadini. Ma poi quel che è peggio è questo suo elogio della superficialità, della piramide del rovescio, che se tu ti impegni e fai fatica per capire un libro sei un fesso, che tutto devi fare tutto con gli app, che deve essere tutto in superficie, cioè sposa completamente delle tesi di gente che ha giustamente 17 anni, però non ce li ha, quindi è buffo, è come vedere quella signora di 80 anni che si mette il rossetto e i jeans, quindi nessuno nega la sua intelligenza, però è tutta una gigantesca paura di invecchiare nel suo caso. Diciamo, io invece non ce l'ho, io sono vecchio rispetto a Sfera e Basta e sono felice di esserlo, ma non c'ho niente da dirgli. Io se quel rapper lì in metro non gli avrei mai fatto lo sguardo e dire ma manco se gli fossi andato a sbattere contro avrei saputo chi era, perché non lo so chi sono questi. Però diciamo, la cosa che un po' mi colpiva è che quando disse questa cosa nel Teatro Verdi con 1500 persone che rimanevano lì a guardare, io mi chiedevo, ma senza questi ingegneri americani maschi, bianchi, che lui tanto disprezza, io non so se nel 2018, era l'anno scorso, 1500 persone avrebbero riempito un teatro per ascoltare una sola persona. Ma poi che il 90% dei programmatori sono indiani, quindi quest'idea che questi sono maschi bianchi americani è una cazzata, perché tutto il lavoro l'hanno fatto, il 90% sono cinesi, indiani, di altre culture. Andate a vedere i nomi, quando prendete qualsiasi programma dell'Adobe, mettete i nomi di ricercatori, non c'è un americano che sia uno. Quindi è veramente una cosa superficiale, ma del resto uno che fa l'esordio della superficialità dice delle cose superficiali, questo è coerente. Insomma, aggiungo, prima di internet io non ricordo che ogni weekend in Italia vi fossero dei festival dove centinaia di persone ascoltano una persona che semplicemente parla. Prima le risposte alle domande le persone le riceveva dalla televisione come unico canale autorevole. Io non dico niente di negativo, io infatti sono un libro alla Ceronetti sulla fine dell'umanità, io non dico nemmeno che sono cose negative, io dico che non lo so e che vi dico che probabilmente un ragazzo che oggi ha 18 anni ride di questo libro, perché io dico che secondo me a navigare in mezzo a tutti questi miliardi di stimoli dove tu c'hai dalla Taranta fino alla musica di Banda Linda fino a Stockhausen ti ci puoi perdere il senso critico, rischi di fare dei minestroni. Ma io penso che sia così. Uno che nasce in questo mondo probabilmente ci si trova benissimo e non fa minimamente dei minestroni, e quindi mi può dire, ma che ne sai tu? E io questo lo metto in conto scrivendo lì, non ci sono certezze, sono solo il punto di vista di uno che ha l'età mia e che vede però che nell'aria c'è questa cosa, che nel mondo della musica classica, attenzione, questo non è un libro, si parla anche di pop e di rock, ma l'ambiente è quello della musica classica, è un ambiente che definire calcificato è un eufemismo, cioè gente veramente di una totale immobilità mentale che pensa solo a prendere i soldi del fusto riproponendo la boema, la traviata, eccetera. Cioè ci troviamo davanti a veramente degli immobilismi da ghiacciaio. Quindi cose che magari per un uomo che si occupa di jazz o dirò, mi può dire non è così, io gli rispondo, hai ragione, da te non è così, ma da me sì. Cioè il modo in cui muovo io, mi piace o no, è quello della musica classica, perché io non facendo jazz, rock, pop, cose del genere, faccio una musica che per forza deve avere a che fare con i posti in cui si eseguono Mozart e Beethoven e con i musicisti che eseguono Mozart e Beethoven e con gli stessi strumenti che usavano Mozart e Beethoven, e da lì non se ne esce. Quindi il mio punto di vista è sempre quello della musica classica. Quindi quando denuncio tutte queste sclerosi demenziali, qualsiasi altro festival rock, di jazz o come questo, è già più avanti della direzione artistica della Scala dei 50 anni. Attenzione. Allora, tornando ancora a ciò che ci fa interagire con un contenuto multimediale, compresa naturalmente la musica, ci sono degli studi di questi info provider che fanno gli studi comportamentali che dicono che il video di YouTube dopo 40 secondi in media lo abbandoniamo, era un minuto qualche anno fa, adesso siamo scesi a 40 secondi, e una delle risposte che si danno questi analisti di Overt e di Analyst Mason è che la leva del nostro rapporto, cioè ciò che ci avvicina a un contenuto, non è neanche più la fruizione del contenuto, ma immediatamente la condivisione. Cioè noi dopo 40 secondi abbiamo deciso se ricondividere o no quel contenuto nella nostra cerchia sociale per produrre un'emozione, oppure per produrre quello che spesso ne parliamo con Carlo Infante, senso individuale, che non è significato universale, quindi non è neanche più quello che il compositore, per esempio, aveva immaginato. Faccio sempre l'esempio di Cenerentola, no? Che è una storia bellissima messa in un film d'animazione da Disney, è una storia di riscatto sociale, si potrebbe dire, risolta dall'intervento della magia, e però uno per uno noi siamo colpiti da un singolo aspetto. Se io so che mio cugino Nicola la sera prima è stato felice perché ha mangiato un risotto alla zucca, gli mando solo la scena della zucca che diventa una carrozza, perché è qualcosa che succede tra me e lui e che la Disney non ha mai minimamente immaginato. Possiamo immaginare un futuro in cui anche la musica abbia un senso individuale e magari anche un'industria che si fonde? Guarda, l'esempio tipico è quello fatto in questi giorni da questa allucinante dichiarazione del nuovo sovrintendente del Reggio di Torino, del governo della Francia, che ha detto: basta, bisogna svecchiare la lirica. La grande idea è rendere l'opera interattiva. Quindi adesso il mio sogno è fare delle opere dove alla fine il pubblico decide il finale. Quindi non so, Tosca, si butta o no la stessa taglia, la gente vota. Via il televoto. Cioè, Violetta, muore di tisi o no? La domanda è, se la gente vota no, che cazzo succede? Perché la musica prevede di sì. Cioè, la musica di Verdi prevede che lei muoia. Se non muore, che facciamo? Che succede? Lo so io che succede. Succede quello che è successo l'anno scorso a Maggio Fiorentino, quando, siccome c'era la moda del Me Too, e c'erano queste giustamente le rivendicazioni, la storia che mi spese eccetera, hanno fatto una Carmen dove alla fine Carmen non muore, si rivolta, tira lei una coltellata a Don José che muore e lei rimane in scena viva, cosa che contraddice la partitura, perché c'è una scena lunghissima in cui lei muore. Allora il risultato qual è stato? Tutti gli hanno riso dietro, ovviamente hanno detto che era una cazzata di dimensioni clamorose. Qual è stata la risposta di Cristiano Chiaro, direttore del... Però così il nome del nostro teatro è finito sui giornali di tutto il mondo. Certo, ma per aver fatto una figura di merda, vale la pena? L'importante è finire sui giornali pur che sia? Cioè, se questo è il livello di questa gente, che appunto non solo non è musicista, ma che probabilmente viene dal mondo degli Scotti, cioè, loro ragionano così. L'importante è che alla fine il nostro, le foto, i giornali, tutti ne hanno parlato. Ma ne hanno parlato per dire che era una minchiata, perché non è possibile che alla fine questa ammazza lei. Ma io ho visto a Bologna una Tosca dove lei, siccome il regista ha detto no, basta, che palle, sempre Roma, questo è Sant'Angelo, lei si butta, gli dicono che hanno ucciso il suo amante che aveva cosa, e lei gli viene un infarto e muore in scena. L'ho vista io, e muore di infarto. Che è una cosa... È vero che lì la musica ci sta, perché sono tre battute tragiche di Puccini, in quelle tre battute uno si può o buttare la finestra o buttare per terra perché gli è venuto un infarto, ma manca proprio il senso della cosa, giusto per dire fanno lo strano, e da questo siamo arrivati che la gente vota al finale, e secondo lui questa è una figata pazzesca, ed è la prima dichiarazione che ha fatto, se il buongiorno si vede al mattino, capite che anche questa idea del mondo di internet, di interoperabilità, questa è l'idea che di internet ha un signore come quello che ha 60 anni, perché un direttore artistico di 20 anni una minchiata come questa non l'avrebbe mai detta. Quindi il problema è che, essendo poi noi una gerontocrazia in Italia, che io ho 56 anni mi sento ancora dare del giovane compositore, 56 anni, cioè il giovane compositore, perché qui purtroppo c'è la famosa trilogia di Albasino, no? Sei, fino a una certa età sei una sicura promessa, poi per una ventina di anni sei il solito stronzo e poi diventi un grande maestro, no? Quindi se questa è la famosa trilogia di maestro. Ecco, io sono nella fase di solito stronzo, una fase faccio libri come questo. Però l'idea è così, cioè, se voi pensate, io fino a 3 anni fa, cioè quando io sono diventato direttore artistico a Pisa, direttori artistici che avessero meno di 70 anni eravamo tre, io, Nicola Lampadonato a Milano e a Napoli Tommaso Rossi a Strada. Tutti gli altri erano sopra 70 anni, 80 anni. Cioè Nicola ha preso il posto di Enzo Restagno, che pure è un musicologo di tutto rispetto, e però è rimasto sulla sedia di Settembre Musica 32 anni. In nessun paese del mondo uno si siede in un posto e ci resta 32 anni, perché in 32 anni cambiano le prospettive, cambia la musica, vogliamo avere dei punti di vista diversi. Quindi è tutto così in Italia, è tutto lento, perché è un paese di vecchi, di persone vecchie, dove io appunto a 56 anni sono il giovanotto della situazione. Quindi capite che quando si cominciano ad affrontare momenti come internet, che presuppongono un punto di vista diverso, si arriva a quello che propone il finale col pubblico che vota, perché è una frase che può dire solo uno che non ha capito nulla di internet. Il libro è ricco di aneddoti spassosi di questo tipo, che davvero tracciano una fotografia molto triste anche di chi prende le decisioni chiave nell'industria, nelle programmazioni, soprattutto perché e vorrei anche proprio chiarire che è un libro tutt'altro che, come dire, tecno-pessimista o neoluddista, come molti che stanno uscendo. No, per niente, è un libro che ha fiducia nell'arte, nella musica classica, e soprattutto vuole sfatare questo mito veramente assurdo, che la musica classica è una roba per ricchi e per difficile, per pochi, ma soprattutto per chi se la può permettere. A Milano, mi pare che fra un mese, c'è il concerto di Phil Collins. Il biglietto costa 370 euro uno. Quello vuol dire che se uno ha due figli e una moglie e vuole andare a vedere Phil Collins deve spendere tutto il proprio stipendio, quasi 1400 euro, per un concerto di 2 ore. Sì. Questo è più o meno cosa costa come andare a vedere 10 opere alla Scala. Cioè l'abbonamento alla Scala per un anno costa 2000 euro. Quindi una sera 1400 euro. Allora qual è la proposta in Italia? Qual è la proposta per i ricchi delle due? Io faccio vedere un concerto di stagione sinfonica alla Scala, se uno si può sedere, no, in alto, che comunque se proprio voglio andare bene, mi vesto bene, mi metto in platea. Se vado a sentire la sinfonica, 85 euro. Se vado a sentire un'opera, 250. Che io lo scrivo, sono tanti soldi, non è che sono pochi, sono tanti. Un biglietto della Juve. Un biglietto della Juve, certo di Vasco Rossi costa di più, certo di Juve costa di più. Andare a sedersi sul prato per andare a sentire Jay-Z costava 100 e passa euro, sul prato, quelle zanzare. Se volevi lo zampirone, andare nel reparto VIP, 300 euro. Cioè, allora, qual è la proposta per Ricky? Eppure, ancora adesso, è uscito non so quale dell'ennesimo libro, dell'ennesima direttrice d'orchestra che fa la divulgatrice, dice, finalmente un libro che avvicina la musica anche per pochi. Ma chi l'ha detto per pochi? Il Festival Mito a Milano, cioè i concerti che costano da 0, perché non sono gratuiti, a 15 euro. I concerti qui a Pisa, per i ragazzi, costano 3 euro. Ragazzi della normale, 1 euro. Anche altri costano 10 euro, 15 euro. Cioè, e poi ancora però, siccome qualcuno anni fa ha detto che questa è una musica per pochi ricchi, questa minchia viene ripetuta a pappagallo, senza pensare, senza vedere, andiamo a vedere i dati, andiamo a vedere se è vero. La musica classica non è affatto per ricchi, non è affatto difficile, non è affatto per pochi, è a disposizione di tutti, costa veramente un decimo anche in qualsiasi festival del jazz. Adesso è pieno, camminando un biglietto 89 euro, più di un concerto sinfonico alla Scala, ma un concerto sinfonico alla Scala sono 200 persone sul palco, per bianco sono in 4. Io faccio l'esempio di un concerto che c'era a Milano di Neil Young, lui, che io adoro, però voce, chitarra, quindi spese zero a parte il taxi per andare al teatro, un faretto che tutta la sera l'ha illuminato fermo, cioè una cosa, se fai vedere The Wall, che c'ha una produzione pazzesca, 50.000 tecnici, muri e i tour di Madonna, di Michael Jackson, quelli costano come un'opera lirica, allora il biglietto lì costa caro, ma tu, ma il biglietto di Milano costava 90 euro, cioè più di un concerto sinfonico con 200 persone alla scala, con lui da solo, con la chitarrina e un faretto. Perché costava 90 euro? E soprattutto perché non è uscito nessun articolo sui giornali sull'elitarismo di Neil Young che costa così caro? Perché siccome questa roba si ripete da sempre, ancora non la ripetono ancora. Sì, forse bisognerebbe anche un po' accendere il cervello prima di commentare i modelli economici della musica, però credo che bisognerebbe anche educare le persone ad accendere il cervello prima di compiere una scelta davanti a questi schermi che abbiamo, perché uno dei grossi problemi nell'interagire con i contenuti è che il famoso search, che è una delle funzionalità di questo archivio naturale straordinario che è internet, non lo usa praticamente nessuno, o se lo usi sei guidato da Google che ti fa vedere quello che conviene a Google e non quello che conviene a te, mentre la nostra esperienza online è sempre più comunque discovery, e l'anno scorso Sandy Rakshan qui proprio al festival, Internet Festival, disse che internet praticamente è tornata ad essere una televisione, cioè stai lì e subisci continuamente senza mai mettere in connessione due neuroni le raccomandazioni o dell'algoritmo, o degli amici, o un incastro dei due, o di Amazon che cerca di farti comprare qualcosa, eccetera. Per far dire Amazon mi consiglia i miei libri. Sì, nel senso. È una cosa che ti può piacere questo. Ma però, ecco, con la musica, a proposito di accesso, molto più facile per esempio la musica che non viene mai proposta nei programmi, la musica contemporanea, e in realtà internet da sola già dà l'accesso a tanta musica che normalmente non viene programmata. Soprattutto quella. E che allora cosa possiamo fare per arrivare pronti, educati alla scelta e non farci trascinare? La parola è educati. Il problema è che l'Italia ha un debito d'ossigeno in questo senso. Fatto, per chiudere il discorso di prima, il concerto di Phil Collins si è esaurito da mesi, da migliaia di persone che probabilmente non comprano il CD perché i CD costano cari, 20 euro e poi 10 euro e poi spendono 370 euro per un biglietto. Chiuso il discorso. La parola educazione è solo questa, cioè in Italia l'educazione musicale non esiste, perché circa 90 anni fa due signori che si chiamavano Benedetto Croce e Giovanni Gentili, quando hanno fatto i programmi scolastici che tuttora sono in vigore, che già per Alice Luca, che stiamo ancora con dei programmi fastidiati 90 anni fa, siamo pensati che i programmi dei conservatori sono stati fatti nel 37, da Petrassi non sono mai cambiati, decisero, io quando ho letto la motivazione mi sono cadute non le braccia, non dico cosa, che la musica non era un'attività virile, era come il cucito, perché in quegli anni chi suonava il pianoforte? Le signorine di buona famiglia. Sono gli stessi che dicevano che Schubert faceva la musique pour les jeunes demoiselles. No? E quindi, siccome non era un'attività virile, mentre invece il latino, il greco, la filosofia era un'attività da maschi, con questo ragionamento non l'hanno messa nei programmi scolastici. E ci è arrivato poi il flautino che non serve a niente. Quando tu hai 90 anni di ritardo su questo, anche se domani cominciassimo a fare delle situazioni musicali serie in Italia, che non si può perché dovrebbe riformare tutto, sarebbe troppo tardi, cioè quella purtroppo è una causa persa. Noi resteremo sempre un paese analfabeto musicalmente, dove è tutto affidato alla buona volontà dei poveri insegnanti che fanno quello che possono. Ma il vulnus è la base, cioè che questi due signori, solo due, hanno deciso che questa non è un'attività sufficientemente virile. E questo è quello che ci troviamo oggi. Allora, sono le 19:15, a me piace queste presentazioni quando c'è partecipazione. È vero che siamo stretti coi tempi, però preferisco magari sacrificare qualcosa alle nostre chiacchiere. Soprattutto se sei in disaccordo con me, perché se siamo tutti d'accordo. Se c'è qualche domanda faccio io la hostess, anche se non ho le fisiche di ruolo. Aspetta, ci sentiamo. Ci sentiamo anche senza microfono. Grazie intanto perché ha detto una cosa bellissima, noi poniamo domande senza avere risposte, senza avere le nostre verità. E tanto mi sono annoiato alla presentazione precedente e quanto invece questa mi è piaciuta. La cosa che così un pochino frequento il mondo della lirica è, io per esempio Durandotto farei finire quando vuoi più, per dire, ma a parte quello, sto notando appunto questo fatto che la lirica, e forse è così anche per la musica classica, per la lirica posso dirlo a ragion veduta, si vergogna quasi di se stessa, come se si volesse mettere una maschera. Cioè, vedo anche questi trailer che pubblicizzano opere liriche che sono fatte in maniera autoironica, scherzose, quando la musica conta un'altra storia. E anche, mi permetto di dire, anche qualche regia. Io lo scrivo: per sopravvivere in futuro la musica classica e operistica dovrà innanzitutto smettere di chiedere scusa e giustificarsi per la propria esistenza ogni volta che si presenta il grande scusate, è un po' lunga, eh? È bella, ma poi che non è noiosa, ma comincia uno che comincia così, esatto, già fatto male. Sì, però c'è, occhio che però non è noiosa, se tu parli così, uno ovviamente dice, vabbè, allora è noiosa, non è male. Esatto. Se tu subito chiedi scusa, invece tu devi dire, no, io ti propongo una cosa che è diversa da quei 4 secondi davanti al computer, ti do un'esperienza diversa dove tu ci devi mettere anche del tuo, ti ci devi immergere. Io ti propongo una cosa di non omologata, un po' diversa. Ecco, questa roba che mi sta un po' spaventando, ma che non arriva dal basso, cioè da quello che va a vedere, non è neanche, mi sembra che non sia una richiesta. Va a vedere, subisce. È come la gente che non ascolta la musica contemporanea, non è che non ascolta che non gli piace, non ascolta che nessuno gliela propone. Perché quel signore che sta dietro la scrivania, che vuole fare il finale votando, odia la musica contemporanea, quindi lui dice, quella roba lì al pubblico non gli interessa. Quindi non gliela propone proprio, cioè è una specie di diga che sta a monte, che impedisce, perché poi quando gliela proponi, visto che oggi quella musica contemporanea è diversissima, va da Ludovico Einaudi a Stockhausen, c'è un mondo intero di stili diversissimi, ma perché non ce ne dovrebbe essere uno che interessa il grande pubblico? Nel dubbio non lo facciamo, ma chi dice nel dubbio non lo facciamo sono gli analfabeti veri, quelli che stanno in cima, cioè la gente è totalmente ignara, ad esempio, dell'esistenza di un'autrice come Missy Mazzoli, degli ultimi lavori di Philip Glass, di Steve Reich, musica che gli potrebbe piacere tantissimo, ma se io non ne avrò loro che ne sa? Io infatti qui l'ho proposta e noi, proponendo questi autori, prima non se ne facevano gli autori contemporanei, noi abbiamo raddoppiato in 2 anni gli abbonamenti. Perché? Perché la gente non ne poteva più sentire, cioè c'è anche Mozart e Beethoven, giustamente, come è giusto che sia, ma c'è anche musica diversa, ma non è che abbiamo proposto autori che sono la norma in tutto il mondo, che trovi in tutte le stagioni del mondo per non trovare qua. Guarda caso sono tornati i ragazzi, ed è aumentato il pubblico. Ma che succede? Hanno bevuto qualche cosa di strano? No, forse è quello che dovrebbe essere la normalità. Grazie. Chi tocca? Io. No, intanto volevo ringraziarvi perché io ho adorato nel mio periodo universitario Pat Metheny, però mi sono fermata a Zero Tolerance for Silence. Però ho amato tutti i primissimi, Brightside Life, Of Ramp, Secret Story. Quei apps non ce l'hai, è uno dei migliori, forse il suo capolavoro. No, quindi ora assolutamente comprerò il CD. A parte questo, per cui vi ringrazio, una riflessione un po' forse banale, assolutamente, però io sono cresciuta... Non ci sono riflessioni banali. Okay. No, sono cresciuta quando ancora c'erano i vinili, si ascoltavano i vinili, il problema dei vinili era che si graffiava, si rovinava, dovevi cambiare la puntina, no? Eccetera. Poi le musicassette, poi il CD, la qualità del suono, il digitale, eccetera, eccetera. E paradossalmente, un tempo la tecnologia serviva proprio per apprezzare il suono, quindi la bravura, e invece adesso siamo arrivati in un momento in cui su Spotify la qualità della musica e del suono è pessimo. Un passo famoso del libro di David dice: questa comodità, si dice che questa musica sia di qualità pessima, ma di questo non gliene frega niente nessuno, dice, perché noi siamo una generazione che è disposta a sacrificare la qualità alla comodità. Proprio dichiarato. Lui forse, che poi non è nemmeno della sua generazione, che lui è ancora lì, uno che quando va in vacanza sente James Taylor, però lui fa finta di spezzare le sfere e basta, ma poi quando va in vacanza, io lo so, lui sente il Zeppelin di James Taylor, la musica che sento io, però secondo lui è normale sacrificare, perché è talmente più comodo che stare a casa a sentirsi il disco, che anche se si sente meno bene, chi se ne frega, invece non è vero. Tant'è vero che i ragazzi adesso hanno riscoperto i vinili, c'è questo boom del vinile che ha passato addirittura al digitale, perché non è, la gente la fa e fissa, ma per un po', non per sempre. Cioè a un certo punto uno che ascolta per caso un vinile, o anche un CD, perché non è vero che il CD non è buono con il vinile, il CD se è fatto bene è buono con il vinile, poi va a sentire le MP3 e se ne accorge che non è la stessa cosa. È vero che è comodo, io lo nego, però una cosa è comodo, ma devi sapere che è comodo, cioè è come uno, cioè questo libro qui è comodo, questa edizione sta in tasca nel tastino, però i libri dei millenni rilegati in un certo modo sono un'altra cosa, c'è cioè un'altra qualità. Io non è che non lo so, se non lo so c'è qualche problema, se non capisco la differenza tra i due c'è qualche problema. È chiaro che io se vado in treno non mi posso portare il giradischi, e quindi lì sacrificherò un po' di comodità se voglio sentire, ma non è quello il metodo d'ascolto giusto, cioè giusto. È così, cioè la qualità è decisamente. Ma torniamo, dobbiamo tutti tornare un po' audiofili? Ma no, in realtà dovremmo tornare ad essere ascoltatori, questo è il problema, perché audiofili. Però la qualità dopo un po', cioè dopo un po' uno lo vede che se la foto della Gioconda sul libro non è la Gioconda, quando la vai a vedere, ti accorgi la differenza rispetto a quella che hai visto sul libro di testo. Se non la vedi hai bisogno di cambiare gli occhiali. E invece, secondo Sandro, è giusto non vederla, perché ormai la Gioconda è quella lì, è quella che tu hai visto sullo schermo del computer, non è più quella vera. Cioè è uguale, il valore è uguale. Invece che non è vero, questa è l'unica cosa che veramente ti rimprovero. Questa è la cazzata vera, di dire che non esistono più differenze qualitative, che è tutto uguale. È l'idea del troniano, la musica è una. Quindi quando lui ha fatto la legge sulla musica, voleva farla, poi mio male non c'è riuscito, ha chiamato La Mannoia, Giovanotti, Ligabue, De Gregori, cioè tutti quelli che piacciono a lui. Ligabue l'accordo. Gli è arrivato un messaggio, mi ricordo una famosa lettera di Enrico Rava, sul set del Corriere della Sera, diceva: ma magari un musicista di jazz e uno di musica popolare li potevi anche chiamare. Il fatto che tu non li ascolti non significa che questi poi debbano decidere anche su me. Il problema, la catastrofe vera che abbiamo, ad esempio, degli ultimi modi in cui sono stati dati i contributi alla musica in generale, il MIBAC, è che Franceschini ha voluto fare una veltronata, cioè anziché chiamare persone competenti a decidere quanti soldi devono andare Pisa piuttosto che a Reggio, piuttosto che al Festival dell'Atalanta, ha detto: no, facciamo una cosa democratica, ci mettiamo uno classico, uno rock, uno pop, uno jazz, uno folk e un DJ. Allora, tu mi spiegate questo DJ come stabilisce se il cartellone della Scala merita X soldi facendo Wozzeck piuttosto, cioè cose di cui non sapeva niente. Beh, quando metti il giudice Taormina nella giuria di Sanremo è già risolto. Ecco, capito, questo è il sistema. Perché così era democratico, perché siccome la musica è una, il DJ valeva come l'esperto di musica classica. Quando si azzerano le differenze qualitative, si arriva purtroppo al regime, questo è il problema. Ma ti pare anche il contrario, no? Come hai detto prima, gran parte di quella classe di dirigenti che gestisce sistemi culturali ignora gli Stibraic, il film Drase, per cui... Ma ignora anche se è basta. Da almeno tre generazioni, ricordiamole almeno tre. Non c'è un ricambio di forma culturale. Ah, no, perché ti dico, c'è gente che sta 32 anni su una serie e non si schioda più. 32 anni? Io non dico di fare come il Meltdown Festival di Londra che cambia direttore artistico ogni anno, perché sennò sarei anche contro il mio interesse, questo è il terzo anno che sono qua. Ma però dopo un tot di anni uno se deve andare e lasciare il posto a un altro punto di vista. I ghiacciai non stanno più fermi. Stiamo fermi come i ghiacciai. No, siamo più lenti dei ghiacciai, no? Ti ricordo che no. La musica ha già spazio, cioè, come dire, la musica che non è tanto un sistema, è una condizione percettiva di consumo, ha già spazzato via un modello industriale. Il mondo discografico è stato resettato 25 anni fa, mica 2 anni fa, 25 anni fa. E da 20 anni abbiamo a che fare, e qui è stato interessante di come il valore d'uso, potremmo dire, di consumatori ha inventato nuovi modelli che non è solo gli MP3 ma il peer-to-peer e cose di questo tipo che hanno creato una cultura della vita fenomenale. È stata la musica Ha cambiato anche il modo di scrivere, perché ripeto, oggi tutte le collaborazioni tra musicisti si svolgono via internet. Cioè Stevie Wonder, che una volta andava nello studio e faceva da solo sul disco degli Eurythmics, adesso glielo manda da casa sua. Fanno tutto a distanza, le collaborazioni, c'è Clapton che suona su quel disco, ma non si sono mai visti. È tutto file sharing, è tutto così, non si sono, è tutto fatto così, ma anche la musica classica, collaborazioni. Ma già dovresti produrre, tu che sei direttore artistico a Pisa adesso, no? Qualcosa, mi rendo conto che poi è una bella incognita, no? Perché non è che si creano formati culturali per bacchetta magica. No, ma poi non c'è nessuna garanzia di qualità, perché la musica comunque c'è adesso, non c'è più. Tu avrai visto sicuramente quando era 15 anni fa, 30 anni fa, allora è uno degli eventi più importanti per il teatro musicale in Italia, il Decay degli Stingrage. Una videoopera straordinaria. Però costa almeno allora costava oggi ovviamente costerebbe meno su quel formato lì, uso il termine formato per loro, sì, no? Sì, perché già è incredibile di come nel sistema audiovisivo i formati, le web series, no? C'è una sorta di velocità esponenziale, in Italia non riusciamo a schiodare, no? E la musica incredibilmente è il segmento più debole, cioè da una parte è la condizione più veloce dappertutto in Italia, le istituzioni musicali sono anche caudate. Ma perché c'è questa idea manageriale che ci devi mettere un bravo manager, ma manager sì, per altre cose, non però la istituzione è quello, scusate, ma non è un prodotto, non si vende, non è un merce, ed è quello che la differenza è della merce. Prometto che non dico il tempo è tiranno, diciamolo, però i comuni un po' di verità ce l'hanno. Sarebbe bello poter andare avanti all'infinito, però devo dire che tante belle cose sono state dette e tante sono ancora scritte qua dentro, quindi qua fuori, se volete, trovate il libro di Carlo Boccadoro, che costa pure poco, che costa pure poco, e lui ve lo firma, vi fa una splendida dedica, potete venderlo su eBay domani, lo potete vendere su eBay a un prezzo sicuramente superiore. E grazie a tutti per i contributi e alla prossima. Al prossimo libro. Venite ai concerti del Romano di Pisa. Assolutamente. Di tutto di più. Grazie.